Questa è la nostra ultima trasmissione alla gente del pianeta Terra. Noi non sappiamo se riceverete questo messaggio e non sappiamo se sia sopravvissuto il ricordo di chi eravamo e di quali fossero i nostri propositi e del disastro che ci ha condotti in questo viaggio nelle infinite vastità dello spazio e del tempo. Vogliamo che tutti voi sappiate che noi siamo esistiti. sai che questo qua. Accidenti. No, me l'ha schiacciato il boccale. Thank you.

guess who's back? But you never left. Yes, I did, I rose from the dead. And now I'm here to kill them with flows and some punchlines that'll go over your head. Turn back, I'm a caution ahead. I'm your worst nightmare, stood over your bed. So them girl try call me, but I smell defeat like a hole in your breath. Wow, she's sick and she's bad. She sings and she raps, she shit and she's whack. They talk all that chat, but when they see me, don't speak none of that. Cause nobody bad like me, I'm fucking higher than a block of flats in Battersea. Whoa. And I'm with my team. Squally, where you at, my J? I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? That squad. I'm only 10, yeah, up in that squad. Fucking with my squad? I think not. Me and my bitches, we roll deep. And we always got green, so we pretty much peas in a pod. I was at the scene, had to flee from the cop. I go inside with no keys for the locks. Excuse me, madam, how did you get on the premises? Well, I came to kill off my nemesis. So I used my juju and I came up in the crevices. Them bitches say they're bad, but I'm from where the fucking devil is. So if they get me mad, we're in the yard, disturbing residents. And we leave out the yard, up in the car, dispose the evidence. Nobody bad like us. Nobody bad like us. But really, we don't want no fuck. Someone roll them blunt so we can turn shit up. Squally, let me see you brush your guns. I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up on that squaddy. Came true with the clan, came true with the posse. I came with Mary Jane's, I'm came in it with Molly. Nuff girl in it, that's the way you roll, squaddy. Nuff girl in it, that's the way you roll out. If the line's good, you have to get your phone out. Bare skin teeth when we pose for the photo. Some girl are braided, some girl are in cornrows. But still one dread if we have to. The heart is still like a statue. Been on my grind like my back tooth, yeah. Take out the time, but I fuck zoots. Step on the gas, hit the back rooms. Why? Cause if my bitches need me there, well, I'm coming. And if I ain't got the witch, yeah, I'm running. I do it for him, it ain't nothing. Squad, hey, let me see you brush your something. I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? That squad. And that squad, that's a wall, that's squaddy, that's the clan, that's the posse, that's them, that's moi. Ah. Oh, how we'd love to roll you in. Roll a roller coaster. Oh, how we'd love to roll you in. Oh, buy a ticket for a fancy airplane. Mentre vedo il mondo a strisce, la tua faccia multicolore, poi arriva da... camino e si mette a rollare su di tavola che gente da fare ha portato uno sballo di nero. Era mi sale più leggero, poi si va fuori col freddo nelle vene. C'è un'osteria un po' più in là dove costa poco e si mangia abbastanza bene. Poi si va fuori col freddo nelle vene. C'è un'osteria un po' più in là dove costa poco e si mangia abbastanza bene. Entriamo in camminata lunare, con salti di 6 metri ci vedete avanzare. E Marisa mi tira in un portone e si fa baciare in un arcobaleno di luci. Io lo bacio senza protestare, poi si va a casa fuori vicino a fare l'amore senza troppo casino. La sua amica non si deve svegliare, che domani deve andare a lavorare. Quando si sveglia e sono solo, mi fa male agli occhi la luce, vestito al bianco del lenzuolo. Quando mi sveglio e sono solo, fa male agli occhi la luce, persino al bianco del lenzuolo. E questa è una canzone senza finale, come senza fine il nostro sbatterci, il nostro vivere, il nostro mare. Vivere come in un vortice di lavandino, con la fiamma di un cerino che si consuma, a poco poi scompare. Vivere come in un nido di serpenti, con le unghie e con i denti, aggrapparsi alla vita, aggrapparsi per non farla più scappare. Vivere come in un nido di serpenti, con le unghie e con i denti, aggrapparsi alla vita, aggrapparsi per non farla più scappare. Per non farla più scappare, per non farla più scappare, per non farla più scappare. Churchyard by a river, blazing in the haze of midday, laughing in the grasses and the graves. Yellow bird, you are not long in singing and in flying on, in laughing and in leaving. Willow weeping in the water, waving to the river daughters, swaying in the ripples and the reeds. On a trip to Cirrus Minor, saw a crater in the sun, a thousand miles of moonlight later. to construct a perfect mold. I fucking give up playing catch up. I can keep up, you can keep it. If you cannot see the change, let's get up there. Mean spell technology, perpetuate the trend. Cost us so much more than dollars and in the end. Well, that's a mate! Nothing means anything when we deep in our genuine feelings. Let the computer creep. That's a failure to have sold your soul to corporate demons. Bargaining your lessons with the figures and the bull. Starting your consumption to construct a perfect mold. To construct the perfect mold! It's one. giorno di solito comincia sporco, come l'inchiostro del nostro giornale, scritto sui bianchi muri delle prigioni della Repubblica Federale. Giorno per giorno avanzando tranquille, sono quasi davanti alla tua finestra, con un corteo di stelle, scintille, tamburini, la banda, l'orchestra. Pensava lì che la foresta più nera è vicina, ma oggi la luna ha una faccia da strega, che sole ha lasciato i suoi raggi in cantina. Spegnete la luce, pensava Ulrica, che la foresta più nera è vicina, ma un jumbo jet scrive viva il lavoro col sangue nel cielo di questa mattina. Con un megafono su un autobus rosso, un Cristo uscito dal circo Togno, comincia un comizio con queste parole: disoccupate le strade dai sogni. Disoccupate le strade dai sogni, sono ingombranti, inutili, vivi, i doppi rifiuti siano tratti in arresto, decentreremo il formaggio e gli archivi. Disoccupate le strade dai sogni, per contenerli in un modo migliore, possiamo fornirvi fotocopie d'assegni, un portamonete, un falso diploma, una 24 ore. Disoccupate le strade dai sogni ed arruolatevi nella polizia, ci sarà bisogno di partecipare ed è questo il modo al nostro progetto di democrazia. Disoccupate le strade dai sogni e continuate a pagare l'affitto ed ogni carogna che abbia altri bisogni, dalla mia immensa bontà sia trafitto. Oggi è vietata la masturbazione, l'ambro e l'ambrusco vestiti di nero apriranno le liste di disoccupazione, chiudendo poi quelle del cimitero. E poi costruiremo dei grandi ospedali, i carabinieri saranno più buoni, l'assistenza forzata e gratuita per tutta la vita e un vitto migliore nelle nostre prigioni. Disoccupate le strade dai sogni e regalateci le vostre parole, che non vi si scopra nascosti a fare l'amore, i criminali siano illuminati dal sole. Disoccupate le strade dai sogni, disoccupate, disoccupate, disoccupate le strade dai sogni, disoccupate, disoccupate, disoccupate le strade dai sogni, disoccupate, disoccupate, disoccupate le strade dai sogni, disoccupate, disoccupate. Thank you. quando arriva un trombone. Cammina col culo però sembra alto. Intona commosso una strana canzone, Cristo la canta e mi addosso in un salto. Disoccupate le strade dai sogni, non ci sarà posto per la fantasia nel paradiso pulito e peroso della nostra nuova socialdemocrazia. A questo punto mi butto dal cielo, mi butto dal letto e do un bacio in bocca a un orribile orco. E lecco l'inchiostro del nostro giornale. È vero che il giorno sapeva di sporco, è vero che il giorno sapeva di sporco, è vero che il giorno sapeva di sporco, è vero che il giorno sapeva di sporco. Please give me what I need. Set that pain and la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la C'est comme ça qu'on beat in my drum like dum dum dum day. I love the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama, mama. Beating the drum like dum dum dum day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama, mama. Be my woman, girl, I'll be your man. Be my woman, girl, I'll be your man. Je fais bouger les têtes, tu connais mes textes, connais pas ma technique, bec pété qui je vise le bingo, que des faux lingots, éviter les bimbo, mat mon équipe, ça fout les boulots, ça les dégoûte, car nous on déboule comme des fous dans la foule, mais on passe à ses coups, toi tu restes à l'écoute, on se serre les coudes, nous fait pour des fous. J'suis pas un gangsta, pas la peine de mentir, j'suis comme toi. Sem, sem, sem. Un gangsta, pas la peine de mentir, j'suis comme et toi. C'est pas assez, balabalada, papaya, venga, baila, comme ça qu'on sème, sème, sème. Me laisse pas solo, solo, conmigo. Gangsta. Hey ma ma ma ma, hey ma ma ma, som som som. Bitch, better have my money. Bitch, better have my money. I'm too hot, hot, hot, damn. Hot damn. Call the police and a fireman. I'm too hot, hot, hot, damn. Hot damn. Make a dragon wanna retire, man. Girls hit you, hallelujah. Woo. Girls hit you, hallelujah. Woo. Girls hit you, hallelujah. Woo. Girls hit you, hallelujah. Cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. I'm in love with the Coco. I'm coming to terms that I'm not concerned with letting my feet from moving onward. I'm growing older, but I can't get over problem where I wanna be. Everywhere I'm not, but I'm thankful for what I've got. A room and a house where my bed may stay, but the feel of another sheets help keep my

Good afternoon, passenger. This is your captain speaking. First, I'd like to welcome everyone on Mangia Tutto flight. We are currently cruising at an altitude of 35,000 feet at an airspeed of 400 miles per hour. The weather in Maracaibo is clear and warm. The sun is high in the sky. Birds are swimming. Dolphins are singing. So we can say it's finally summertime. Yeah, it's summertime. It's summertime. Oh, no. It's summertime. Out of the blue, I'm so sad. È tardi, sai, perdi l'ora, ma mi sono sbagliato e ho pianto un latte versato. Ma adesso sai che cosa ti dico. Io mi mangio un gelato. Un gelato. Un gelato. Un gelato. Thank you. Farca. piani, vagherai così sereni, come un guardo che io desidero. Dal cielo cadervi Dio, tu stelle più lumi. Satellites in every guess the universe was here. Your lucky day. Well, here's your lucky day. It really, really, really could happen. Yes, it really, really, really could happen. If the days they seem to fall through you, well, just let them go. Well, it really, really could happen. Yes, it really, È arrivato il momento di concludere questo messaggio e di affrontare le incertezze e le grandi sfide della vita sul nostro nuovo mondo. E infine, a voi, abitanti della Terra, noi diciamo addio. Vi chiediamo soltanto una cosa. Non dimenticateci. Non dimenticateci.